in primo piano. Giulia Crivelli, buongiorno, giornalista del Sole 24 Ore, lo ricordiamo, e tu anche oggi hai letto i giornali per noi, adesso sì, ci accompagnerai in questo percorso. Come anticipato ieri, insomma, non ci sono grandi sorprese, i grandi temi sono la Cina e tutti gli effetti che ha avuto sui mercati finanziari e poi la questione dei migranti, perché anche ieri, poi le notizie di cronaca di ieri sono veramente sconvolgenti, con altri 50 morti su un unico barcone, quindi sono un po' questi grandi temi. Grazie Giulia. Ed eccoci appunto, cominciamo quindi dal Sole 24 Ore che anche oggi naturalmente ha numerosissimi approfondimenti e commenti per cercare di leggere quello che sta succedendo sui mercati finanziari, anche perché oggi, ieri è stata una giornata di estrema volatilità, che appunto incertezza sull'incertezza, e quindi il titolo del Sole 24 Ore è: in borsa vince la volatilità, sprint finale a Wall Street. Perché ieri è successo un po' il contrario di quello che era successo martedì, cioè mentre martedì le borse europee avevano messo a segno un rimbalzo rispetto a lunedì, che era stata una giornata nera per tutti, quindi borse europee in rialzo, New York in ribasso, ieri è successo il contrario. Lo schema sulla prima pagina del Sole 24 Ore lo mostra molto chiaramente: le borse europee sono tutte scese, Milano è quella che ha contenuto di più i ribassi con una chiusura finale dello 0,81%, mentre New York è cresciuta del 3,9%. Il commento di oggi è affidato a Carlo Bastasin, la lezione di Pechino: se l'Europa investe di più, la Cina fa meno paura. Vi leggo la prima parte, poi continuo a pagina 2. Un ministro cinese spiegava l'inevitabile ritorno del grande paese asiatico alla supremazia globale con un paragone suggestivo e apparentemente intriso di saggezza. Aperte virgolette. Gli americani sono gli unici ad avere sul mondo uno sguardo largo. Voi europei avete invece uno sguardo profondo, ma solo noi cinesi abbiamo uno sguardo lungo. Chiuse le virgolette. È l'illusione che esista una capacità millenaria della Cina nel governare, una specie di inevitabilità storica. Negli ultimi mesi, invece, il governo di Pechino ha commesso una serie di errori nel difficile passaggio dell'economia cinese dalle prime fasi di sviluppo a un sistema più equilibrato, meno basato su debito e investimenti. E poi vi leggo l'ultima parte, perché appunto di investimenti e di lezione per l'Europa si parla, e l'ultima parte dell'editoriale, come vi dicevo, a pagina 2 di Carlo Bastasin è questa: la crisi cinese e la depressione europea puntano il dito dunque sul vuoto di una comune politica economica europea e sulla fragilità di un modello di sviluppo basato su livelli di investimento molto bassi. La speciale carenza di investimenti nell'euro area si spiega d'altronde con i problemi degli ultimi anni nell'offerta di credito e nel grado di incertezza politica. Entrambi questi fattori sono collegati alla crisi dell'euro area e si sommano in modo indipendente all'effetto di riduzione degli investimenti, provocando una crescita comunque bassa. L'incapacità di tornare al livello degli investimenti pre-crisi è la ragione primaria del protrarsi della crisi stessa in un circolo vizioso tra bassa crescita e incertezza politica. È esagerato criticare l'Europa anche quando in crisi è la Cina? Forse sì, ma i problemi europei, l'incapacità di assumere una personalità unica e attiva nella politica economica, sono la ragione per cui l'euro area è destinata a pagare anche quando a sbagliare sono gli altri. E è un tema interessante, sappiamo che la crisi greca in particolare ha aperto il dibattito sui difetti che ha appunto l'Europa, tra cui l'incertezza politica, ma anche l'incapacità di avere una politica economica. Abbiamo una politica monetaria comune grazie a Mario Draghi, ma non economica, quindi insomma ben vengano questi spunti di riflessione. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore anche un approfondimento di Rita Fatiguso, un'analisi di Rita Fatiguso intitolata Il debito monster e la caccia ai trader. Rita Fatiguso è la corrispondente dalla Cina del Sole 24 Ore, perché e analizza questa che è stata una delle tante reazioni del governo di Pechino alla crisi degli ultimi giorni, cioè questa caccia ai trader, a chi ha speculato troppo. E poi vedremo anche su altri giornali, c'è anche una sorta di caccia ai giornalisti che hanno raccontato con troppa trasparenza quello che sta succedendo in Cina. A proposito però di mosse europee su grandi questioni, abbiamo detto la questione dei migranti, e qui c'è l'opinione di Adriana Cerretelli: emergenza e immigrazione, la risposta sbagliata di un'Europa miope. E poi vedremo appunto anche la cronaca con questi 51 morti trovati su un barcone che dalla Libia cercava di raggiungere le coste della Sicilia. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore anche un approfondimento sui dati che il Ministero del Lavoro ha corretto ieri, perché era stato detto che nei primi 7 mesi, grazie al Jobs Act e alle altre agevolazioni, c'era stata una crescita di 630.000 contratti a tempo indeterminato. Questa cifra è stata dimezzata per una serie di motivi, tra l'altro poi trovate anche il commento del Sole 24 Ore alla pagina 16, troppa confusione, quindi da 630.000 a 327.000, che sono comunque tanti, ma sono la metà di quelli annunciati solo pochi giorni fa. La prima pagina del Corriere della Sera titola sulla tragedia in mare ieri: troppo poveri morti sul barcone, mentre la fotonotizia è dedicata a quel fatto di cronaca sicuramente molto impressionante per i modi soprattutto in cui è stato comunicato, cioè con un video girato dall'assassino e poi postato su internet, l'uccisione in diretta di un reporter e del suo cameraman negli Stati Uniti. Ma vi segnalo dalla prima pagina del Corriere della Sera, era da tanto che non si leggeva, un editoriale di Paolo Mieli dedicato a quella che lui chiama la nuova sinistra di scuola ateniese, cioè una sinistra estremamente litigiosa. Si parte dal caso italiano, ma poi spazia al caso greco, al caso tedesco, con la SPD che negli ultimi anni ha perso molto della sua influenza proprio a causa dei litigi interni, e anche la sinistra inglese. Abbiamo parlato delle primarie che si terranno nel Labour e dell'ascesa di questo James Corbyn, che è però un personaggio molto che ha posizioni di estrema sinistra e che quindi ha spaccato il Labour al suo interno, che era stato, sappiamo, molto centralizzato soprattutto da Tony Blair. E comunque, insomma, secondo Paolo Mieli c'è questa tendenza all'autodistruzione causa lotte intestine. Vi leggo solo la prima parte. Proletari di tutto il mondo, unitevi, ma se per un accidente della storia vi capita di vincere le elezioni, sfogliate i giornali, cercate un pretesto, sparate a zero contro il vostro governo e pensate subito a dividervi. Eviterete così, quando si voterà di nuovo, di dover fare i conti con la realtà, ma soprattutto potrete assaporare il piacere di aver provocato un gran danno alla vostra casa madre, se sarete abili di mandarla in rovina. E poi cita naturalmente anche il caso delle ultime elezioni regionali, in cui c'è stata la spaccatura tra il candidato ufficiale Raffaella Paita e il candidato definito cofferatiano da Paolo Mieli, Luca Pastorino, e poi sappiamo che forse anche a causa di questa divisione ha vinto il candidato del centrodestra Toti. La prima pagina del Messaggero ve la segnalo perché oggi ci sarà finalmente questa relazione del ministro degli interni Angelino Alfano su Mafia Capitale, annunciata da oltre un mese fa e poi sempre rimandata. Ora dovrebbe arrivare. Il titolo: Marino sotto tutela. È passata esattamente una settimana oggi dai famigerati funerali del boss mafioso Casamonica a Roma, con tutte le polemiche che ne sono seguite, ma non c'è solo quello, c'è appunto anche questa relazione che incombe, c'è l'inchiesta di Mafia Capitale che va avanti nonostante il paese sia un po' sia stato di fatto in ferie, ma il sindaco Marino è sempre in ferie per davvero, così lost nel mar dei Caraibi, potremmo dire, tant'è che c'è anche in prima pagina sul Messaggero un articolo di Simone Carrettieri: il sindaco irritato resta in vacanza nel mar dei Caraibi, come un bambino che è irritato per le critiche, allora no, io resto in vacanza. È sempre più pesante questa assenza, è un po' questo il senso di tutti i commenti che trovate sui giornali. Dalla prima pagina del Messaggero anche la fotonotizia su, abbiamo detto, quell'uccisione in diretta negli Stati Uniti, con questa novità per quanto riguarda questo tipo di delitti, appunto del fatto che l'assassino si è filmato da solo e poi ha subito postato il video. Alla questione di Roma e anche del fatto che ieri ufficialmente è stato detto, anche qui in assenza di Marino, che è un ruolo in questa vicenda sicuramente lo giocherà, è stato ufficializzato che il Giubileo, il mini Giubileo possiamo dire così, sarà affidato di fatto al prefetto Franco Gabrielli. Ci sono 5 pagine appunto sul Messaggero su questa questione, in particolare a pagina 5 un approfondimento sugli appalti, perché l'ho definito mini Giubileo, nel senso che ovviamente confronto a quello del 2000 è molto diverso, però comunque sono previsti tanti lavori, e allora il piano per il Giubileo: tempi rapidi, procedure più veloci e più semplici, e al prefetto appunto l'incarico di coordinare, anche per evitare naturalmente qualsiasi tipo di corruzione. La prima pagina della Repubblica titola anche qui fotonotizia di ieri, il fatto di cronaca terribile degli Stati Uniti, con il reportage di Federico Rampini e due analisi. Da una parte Vittorio Zucconi, il killer con il selfie che copia la Jihad, e l'analisi di Fabio Chiusi, tutte le vittime della rete impazzita. Ma il titolo principale è dedicato ai migranti, altra strage. Poi viene riportato il dato che è stato reso noto ieri dal Viminale, il Ministero degli Interni: sarebbero in arrivo 20.000 profughi. C'è anche un riferimento al ruolo che potrà avere la Germania, che ieri ha preso una posizione molto forte tramite la sua cancelliera Angela Merkel, che ha detto che ci sarà tolleranza zero verso tutti i gruppi neonazisti che un po' hanno innescato le proteste violente contro i centri di immigrazione in Germania. E soprattutto la Germania ha annunciato già da qualche giorno, ma la cancelliera Merkel lo ha ripetuto ieri, che tutti i profughi siriani verranno accolti, aumentando quindi le quote per i diritti, per chi ha diritto diritto al diritto di asilo, appunto, perché perseguitati, perché fuggono da una guerra, aumenterà le quote. La Stampa, stesso titolo, un'altra strage del Mediterraneo, e qui il commento è di Gian Enrico Tedeschi, si chiama L'egemonia morale tedesca, ve ne leggo la prima parte. Aperte le virgolette, perché la citazione è proprio di Angela Merkel. Nessuna tolleranza per chi mette in dubbio la dignità di altri uomini e non è pronto ad aiutare quando è richiesto da umanità e diritto. Queste sono le parole chiare e forti pronunciate da un capo di governo incurante delle contestazioni e degli insulti. E alle parole sono seguite iniziative molto concrete. Questa è la cancelliera Angela Merkel. La Germania accoglierà tutti i profughi dalla Siria, anche quelli entrati nell'Unione Europea dall'Italia, dalla Grecia, dall'Ungheria, in deroga alla norma cosiddetta di Dublino, secondo cui i profughi dovrebbero rimanere nel paese di arrivo. Non è un dettaglio burocratico, è la correzione ragionevole di una norma fissata a suo tempo in modo astratto e formalistico, che si è rivelata di fatto contraria ai criteri di umanità e diritto di cui in teoria va fiera l'Europa. E poi trovate il resto di questo commento di Gian Enrico Rusconi a pagina 21 della Stampa. Anche in questo caso la fotonotizia è dedicata al fatto di cronaca di ieri dei due giornalisti uccisi mentre erano al lavoro, mentre erano alle loro scrivanie. Il giornale: il taglio delle tasse dura un giorno. Il titolo è appunto a questo tono polemico, perché ieri il ministro Padoan, il ministro dell'economia, intervenendo al meeting di Rimini, è tornato sul tema della riduzione delle tasse annunciate proprio al meeting di Rimini, in particolare per quanto riguarda le tasse sulla prima casa, dal premier Renzi, e ha semplicemente detto che le imposte scenderanno, l'intenzione c'è, se cala la spesa. E da qui il titolo: il taglio delle tasse dura un giorno, perché appunto a distanza di un giorno le dichiarazioni molto assertive di Matteo Renzi e quelle più prudenti del ministro dell'economia Padoan. La fotonotizia è abbastanza divertente, è Marino vestito da sub. Marino è appunto in vacanza ai Caraibi. La foto è il giornale, la ripresa dal Tempo, il quotidiano di Roma, che ieri appunto ha pubblicato questa foto di Marino, che il giornale definisce assente e felice, mentre appunto fa le sue escursioni subacquee ai Caraibi, molte centinaia di chilometri lontano dai tumulti di Roma, potremmo dire così, politici e non solo. Per la serie delle lettere d'amore, che continuerà credo ancora per qualche giorno perché è un'iniziativa estiva del giornale, oggi un uomo che sicuramente ha sofferto molto, e non solo per amore, cioè Giacomo Leopardi, il grande poeta e scrittore, che la lettera che viene pubblicata viene intitolata "Vi prego di comandarvi, vi ubbidirò", la risposta immaginaria di Mario Martone, un amore silenzioso da adolescente. Libero, anche in questo caso un titolo abbastanza polemico, perché c'è questo problema di come finanziare i centri di accoglienza e quanto ci costano, e allora il titolo Libero titola: ai clandestini i soldi dei disabili. Il 53% di chi arriva è irregolare, non scappa dalla guerra e non ha diritto di restare. Per mantenerlo però spenderemo mezzo miliardo, proprio quanto spendiamo per il fondo di non autosufficienza o per mettere in sicurezza le scuole. La fotonotizia però è un ritratto molto famoso di Oriana Fallaci, perché è in uscita un libro postumo della scrittrice e giornalista Oriana Fallaci contro i fanatici di Allah, e il titolo è "Ho il diritto di odiare l'Islam". Vi leggerò poi subito dopo la pausa, ci lasciamo un attimo per una pausa, il commento di Filippo Facci, una parte del commento di Filippo Facci sulla questione dei reporter uccisi ieri, è il più polemico di tutti quelli che ho trovato, però forse ci offre uno spunto di riflessione un po' diverso rispetto appunto agli altri commenti che parlano dello strapotere dei social network, del problema delle armi che si acquistano e si acquistano troppo facilmente negli Stati Uniti, insomma cose un po' già sentite. Qui è un punto di vista un po' diverso. In primo piano. Ancora buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli, eravamo sulle prime pagine dei giornali e vi dicevo del commento di Filippo Facci che ha questa rubrica sulla prima pagina di Libero che si chiama Appunto e oggi è intitolata Guarda. Vi leggo le prime righe, riguarda il fatto di cronaca di ieri con la giornalista e il suo cameraman uccisi negli studi televisivi di una TV della Virginia negli Stati Uniti. Confesso, non me ne frega quasi niente dei due reporter uccisi ieri in Virginia in diretta televisiva. Non me ne importa quasi un accidente che l'assassino fosse un collega della vittima e che ha mostrato il suo gesto via Twitter prima di tentare il suicidio. Scrivo quasi perché nel vedere il video ho provato pena per i trucidati, è un riflesso condizionato, ma a parer mio resta un omicidio come tanti di cui non si parla. Questo poi non mi pare abbia nessuna particolare rilevanza sociale o d'altro genere, fuorché per una cosa, c'è il video. E possiamo cliccarlo per rivederci 200 volte l'ammazzamento. Dunque la notizia, più che una rilevanza, ha un mercato. Possiamo dire al lettore, guarda. Poi c'è che l'assassino ha postato sui social network i video in soggettiva dell'omicidio e questo ha reso tutto molto attuale. Inoltre l'assassinata era una giornalista. Anche questo ha giustificato lo spazio spropositato che le homepage dei quotidiani hanno dedicato all'argomento. Ora fioccheranno in retroscena e i giornaloni scriveranno commenti, magari qualcosa sui social network o sul modello ISIS di uccidere e vantarsene in video. Oppure si tireranno in ballo i soliti sfondi razziali. L'assassino è un nero che ha sparato a due bianchi o chissà che altro. Cazzate che dureranno un giorno, cito testualmente Facci. PS, martedì sera a Ponte Cagnano, vicino a Salerno, un 45enne è stato crivellato da 10 proiettili, però manca il video. E quindi insomma, come vi dicevo, sicuramente si può essere magari non d'accordo con questa apparente così crudeltà dell'editoriale, del piccolo editoriale di Facci, però è vero che a fronte di due persone uccise, quante vengono uccise e non ce ne occupiamo minimamente perché forse appunto non sono stati filmati questi delitti. Passiamo alla prima pagina dell'Avvenire che titola invece sulla tragedia di ieri dei 51 morti sul barcone che dalla Libia cercava di raggiungere la Sicilia, trattati come topi, questo è il titolo. E poi il richiamo alla vicenda di cui parlerà anche Irene, quella del bracciante morto di cui però non si trova il cadavere, è un fatto che è stato denunciato dalla CGIL, l'Avvenire dedica a questa vicenda un grande approfondimento, l'intera pagina 7 richiamata appunto in copertina. Il manifesto ha una fotonotizia con alcuni migranti a bordo di un barcone, il titolo né terra né aria, il riferimento è naturalmente al ritrovamento, alla scoperta di ieri di questi 51 morti su un solo barcone. E poi c'è con spazio che sugli altri quotidiani non si trova, spazio a uno dei tanti interventi di ieri al meeting di Rimini che sta per concludersi ed è quello di un grillino che era stato invitato, si chiama Mattia Fantinati, era stato Movimento 5 Stelle, era stato invitato, aveva accettato l'invito e molto criticato dai suoi compagni di partito, lui ci è andato e poi ha fatto un intervento molto polemico, tant'è che il manifesto appunto titola Il contropiede del grillino, comunione ma d'affari. Il Fatto Quotidiano si riferisce a quello che Matteo Renzi ha detto due giorni fa, sempre al meeting di Rimini, forse lo ricorderete, cioè che l'Italia deve uscire da questi 20 anni di divisione tra berlusconiani e anti-berlusconiani che hanno, secondo quello che ha detto Renzi, le stesse colpe nell'aver bloccato il paese. E allora il Fatto Quotidiano titola Ecco gli anti-berlusconiani che hanno rovinato l'Italia. Dopo la sparata di Renzi ricordiamo cos'è stato il ventennio di Berlusconi e chi l'ha contrastato. Ci sono le foto di Indro Montanelli, Enzo Biagi, l'economista Paolo Silos Labini, Giorgio Bocca, Nanni Moretti, Antonio Tabucchi, Michele Santoro e Daniele Luttazzi. E se ieri, forse lo ricorderete, avevo letto l'editoriale di Travaglio perché un po' sorpresa. Aveva detto, aveva commentato l'intervento di Matteo Renzi al meeting di Rimini, dicendo che per una volta Renzi aveva detto delle cose sensate, e così mi ero stupita che per una volta Marco Travaglio parlasse bene di Renzi. Si vede che la notte gli ha portato consiglio o sconsiglio, perché oggi invece c'è un editoriale di segno decisamente opposto. Si intitola "Che film ha visto?". Vi leggo le prime parole per farvi capire appunto perché dico questo. Ripensando alla terrificante frase di Renzi, il berlusconismo e per alcuni aspetti l'antiberlusconismo hanno messo il tasto pausa al ventennio italiano, impedendoci di correre, viene da esclamare: magari. Se davvero l'Italia fosse rimasta per 20 anni in pausa, congelata nel freezer come un sofficino Findus, oggi basterebbe pigiare il tasto play o sbrina e ripartire da dove ci eravamo fermati, cioè dall'inizio del 1994, quando il debito pubblico era al 121% del PIL, cioè 11 punti meno di oggi, e alla metà in valori assoluti, 1000 miliardi rispetto agli attuali 2200. E poi ve ne leggo anche un'altra parte. Oggi soltanto un ragazzotto ignorante e superficiale, oppure fate voi, molto furbo ma poco intelligente, può dipingere questo ventennio come una rissa ideologica permanente che ha impantanato l'Italia in discussioni sterili interne mentre il mondo correva. Il secondo Travaglio: sì, l'Italia non ha mai smesso di correre, ma verso il precipizio. Vi assicuro, leggendo questo editoriale, confrontandolo con quello di ieri, c'è un bel cambiamento. L'Unità ha una fotonotizia simile a quella del Manifesto, cioè scattata su uno di questi barconi, e il titolo è "Uomini o topi". C'è un riferimento a un tweet che ha fatto ieri il presidente della regione Lombardia, il governatore della Lombardia Maroni, che ha twittato: assurdo che la Marina vada a prenderli, altri 50 muoiono in una stiva, l'Italia si mobilita e salva i migranti, ma l'Europa è ancora ferma a Ventimiglia. C'è un reportage dalla festa dell'Unità che si sta tenendo qui a Milano, dove c'è stato un dibattito con il direttore dell'Unità Erasmo D'Angelis e l'amministratore delegato della nuova società che dal 30 giugno edita l'Unità, Stefanelli. Ma la cosa sorprendente, e mi spiace però va notata, è che sull'Unità non c'è traccia di questa correzione importante, che sul Sole 24 Ore in prima pagina, ma è approfondita da tutti i giornali, di questa correzione che ieri ha fatto il ministro del lavoro Poletti sugli effetti positivi del Jobs Act. Ripeto, il Jobs Act ha creato in 7 mesi oltre 300.000 posti di lavoro, ma pochi giorni fa ci era stato detto che i posti di lavoro creati erano esattamente il doppio. Non si capisce ancora bene da dove sia arrivato questo errore, però darne notizia forse è così un diritto di cronaca a cui hanno appunto diritto anche i lettori dell'Unità. Un'ultima segnalazione dalla Gazzetta dello Sport, che ha una lunghissima intervista a Balotelli, tornato al Milan, e vedremo appunto come farà questo giocatore, così che ha solo 25 anni, ma forse 25 anni sono tanti per un giocatore, tant'è che, soprattutto con il passato di Balotelli, tant'è che appunto il titolo è "Ricomincio da me". In copertina anche della Gazzetta anche un richiamo al fatto che oggi ci sarà la finale dei 200 metri ai mondiali di atletica, ed è di nuovo duello tra Bolt e Gatlin, ricordiamo i 100 metri li ha vinti Bolt. E poi qui devo una precisazione a un ascoltatore che giustamente ieri mi ha fatto notare che ho sbagliato il nome di Vincenzo Nibali, il ciclista, il nostro ciclista che ha vinto l'anno scorso il Giro di Francia, quest'anno non l'ha fatto, voleva fare la Vuelta, la grande competizione spagnola, ma è stato escluso, e allora forse adesso si dice che potrebbe partecipare ai mondiali in linea. Trovate questo aggiornamento a pagina 27 della Gazzetta. Nibali, un assist nazionale per il riscatto. Torniamo però sul Sole 24 Ore per approfondire le questioni economiche, perché anche se a chi sembra magari i mercati finanziari sembrano più o meno lontani, in realtà quello che sta succedendo ci riguarda poi tutti. L'economia finanziaria è legata all'economia reale, naturalmente. Vi segnalo in particolare la pagina 5, che è tutta dedicata a quello che abbiamo visto, il rimbalzo di ieri di Wall Street. Dopo 6 sedute consecutive in calo, per la borsa americana è stata la miglior seduta dal 2011. C'è un'analisi di Marco Valsania, corrispondente degli Stati Uniti dal Sole 24 Ore: il voto di fiducia atteso dalla Fed, perché appunto la Federal Reserve, la banca centrale americana, deve decidere sui tassi di interesse e vedere se una correzione può aiutare in questo momento di così complicato, di intrecci tra quello che sta succedendo su tutti i mercati del mondo. Vi segnalo un approfondimento di Roberto Darin molto interessante sull'Ungheria. L'Ungheria mette in allerta l'esercito. L'Ungheria, sapete, sta costruendo questo muro per... nelle intenzioni difendersi dalle ondate di migranti. Sono stati inviati 2100 agenti alla frontiera con la Serbia e Roberto Darin analizza appunto la situazione. C'è anche una cartina che fa vedere molto bene i flussi, i corridoi dai quali dalle coste del Nord Africa i migranti cercano di raggiungere l'Europa. L'analisi è di Alberto Negri, i migranti ultimo anello di una catena di errori, un'analisi che poi si rifà infatti sempre nella stessa pagina, la pagina 10, trovate il commento, l'analisi che dicevamo, che inizia in prima pagina, di Adriana Cerretelli, la risposta sbagliata di un'Europa miope. Vi segnalo anche la prima pagina del dorso di Imprese e Territori, quindi appunto economia reale, continua l'inchiesta alle chiavi della manifattura. Ieri ci si occupava nei giorni scorsi del settore automobilistico e quello della tecnologia, oggi della robotica. Le agevolazioni spingono i robot. Matteo Meneghelli racconta come sia stata quasi raggiunta la metà del plafond messo a disposizione dalla CDP, la Cassa Depositi e Prestiti, e come le piccole imprese siano state in prima fila, abbiano fatto buon uso di questi fondi. C'è anche un approfondimento, ne abbiamo parlato, perché è sicuramente uno dei tanti termometri di come cambia il mondo del lavoro in questi tempi, la vicenda Electrolux. Oggi il sindacato dovrebbe dare una risposta sulla richiesta dell'azienda, che ha chiesto di lavorare per 4 sabati al mese, dopo che già a Ferragosto aveva chiesto di lavorare, e a questo appello avevano aderito in realtà una piccola parte dei dipendenti della Electrolux, ma comunque la fabbrica era rimasta aperta a Ferragosto, e vedremo quindi appunto che cosa succederà. Il reportage di Barbara Ganz, i sindacati chiedono chiarezza sul piano dell'utilizzo delle linee in settimana, e oggi appunto c'è questo incontro che deciderà sui sabati lavorativi di settembre. Penultimo giorno dell'estate col tuo amico Sole, la guida pratica per la famiglia, che in questa ultima settimana è dedicata ai due grandi temi, la riforma della pubblica amministrazione. Oggi si spiega soprattutto che cosa cambia in termini di digitalizzazione, e invece per quanto riguarda la scuola, l'università, l'istruzione, un focus sui test d'ingresso. Quest'anno i 60 quiz, spiega appunto a pagina 35 il Sole 24 Ore, sono più specialistici. Quello di medicina, che è uno dei più attesi, ma abbiamo visto nei giorni scorsi, quest'anno anche uno dei meno gettonati, per l'appuntamento con quello di medicina è l'8 di settembre. Vi segnalo poi dalle pagine interne del Corriere della Sera, prima di lasciarci per la prossima pausa sugli aggiornamenti per il traffico, un'intervista ad Alfonso Sabella, che è assessore da poco, ex magistrato, o meglio magistrato in aspettativa, assessore alla legalità a Roma. Anche lui è rimasto in vacanza nei giorni subito dopo il funerale, adesso probabilmente tornerà. Si degnerà di tornare. L'intervista si intitola "Se il prefetto ci controllerà, per noi sarà un toccasana. Il sindaco assente, ma c'è il vice". Quindi risponde così appunto alle polemiche sul perché Marino in questa emergenza non sia ancora tornato. Anche Sabella, ripeto, è in ferie, però adesso ha annunciato che tornerà. Il riferimento a questo "se il prefetto ci controllerà" è quello che dicevamo prima, cioè il fatto che ormai è quasi sicuro che il Giubileo sarà di fatto commissariato, nel senso che verrà gestito non direttamente dal comune, come sembrava naturale, come sembrava fin dall'inizio, ma dal prefetto Gabrielli. Allora siamo arrivati però all'appuntamento con il traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Devo prima di tutto una precisazione, un mea culpa, delle scuse a un altro ascoltatore. Il ciclismo non è il mio forte, ho detto che Nibali non ha partecipato al tour quest'anno, in realtà ha partecipato, volevo dire che non ha avuto il successo che aveva avuto l'anno precedente, e mi scuso appunto, ma ripeto, il ciclismo non è il mio forte, però ci tenevo comunque a parlare di Nibali, della vicenda di Nibali, che soffre evidentemente molto, come spiega la Gazzetta, ma come spiegava anche nell'intervista del giorno precedente, per questa esclusione invece dalla Vuelta, la grande competizione spagnola. A proposito di sport, dalle pagine interne del Corriere della Sera, una bellissima storia raccontata da Maura Bertanzon, inviata a Teheran, intitolata "Insegnare calcio a Teheran". Dai campi dell'America all'Iran, questa ragazza, che si chiama Kat Khosrowyar, guida la nazionale Under 14 dell'Iran, e dal 2005, pensate, il calcio femminile in Iran ha raccolto oltre 4 100.000 giocatrici professioniste. Dalle pagine del Corriere della Sera un'altra storia di cronaca, e sapete che da poco in Italia è stato introdotto il cosiddetto divorzio breve, e c'è, secondo i dati raccolti e commentati da Mariolina Iossa a pagina 25 del Corriere della Sera, c'è un boom di richieste dagli over 65, le stime degli avvocati, firmate 50.000 pratiche in soli 2 mesi. C'è un'intervista a questa signora che si chiama Patrizia, che racconta la sua esperienza personale, Patrizia Rossi, perché ha fatto questa scelta. Il titolo è "I figli sono grandi, ho un nuovo amore, magari mi risposo". Come cambia anche in questo caso la società, e come questa norma sul divorzio breve, dopo che per anni si era detto che in Italia appunto i tempi del divorzio erano troppo lunghi, come questa norma sul divorzio breve sta avendo degli effetti forse non prevedibili, come appunto il boom di richieste non tra i giovanissimi o giovani, ma tra gli over 65. Vi dicevo, abbiamo visto sul Sole 24 Ore Rita Fatiguso che ci raccontava le mosse del governo cinese contro i trader che sono stati troppo aggressivi dal punto di vista della speculazione. C'è però anche una stretta sui giornali, ce la racconta Guido Santevecchi sul Corriere della Sera. Pechino ai giornali, abolite la tristezza dai titoli sulla borsa. E appunto c'è stato questo invito, le autorità cinesi hanno messo sotto inchiesta 5 agenzie di intermediazione, cioè quelle che noi chiamiamo agenzie di stampa. Come vi dicevo, l'Avvenire ha questa pagina intera dedicata al tema di cui parlerà anche Irene tra poco, e del bracciante morto di cui secondo la Fly CGL è stato occultato il cadavere. Oggi tra l'altro ci sarà un vertice governativo sul caporalato, e c'è un calendario sulle prossime scadenze dei raccolti, e così appunto scopriamo che agosto e settembre per esempio in Puglia è proprio il tempo della raccolta dei pomodori, e poi toccherà all'uva, alle vendemmie, che quest'anno tra l'altro per le condizioni climatiche verranno probabilmente molto anticipate. In fila quindi la seconda storia di questa pagina è dedicata proprio a chi raccoglierà l'uva. In fila per raccogliere l'uva molti stranieri senza un tetto, dall'Europa dell'Est a Canelli in Piemonte c'è questo atto di accusa della Caritas che nessuno si occupa di tutti questi lavoratori. Dalle pagine interne della Repubblica, una storia che trovate anche su altri giornali ma forse non con questa enfasi, è dedicata a quella che gli americani avevano ribattezzato Dust Lady. Si chiamava Marcy, aspetta che qui non vedo il cognome perché la chiamo semplicemente Marcy, Marcy Borden, è una sopravvissuta all'11 settembre, agli attacchi alle Torri Gemelle dell'11 settembre, era uscita dal grattacielo, e però la foto è rimasta simbolo, da qui Dust Lady, la Lady della Polvere, perché era appunto coperta dai detriti sottilissimi del crollo delle due torri. È morta per un tumore, aveva soltanto 42 anni, molto probabilmente quel tumore è legato a tutte le polveri che ha respirato. Vittorio Zucconi ci racconta la sua storia, definita appunto da Dust Lady, che è morta 2 volte. Dalle pagine interne della Stampa invece continua la bella inchiesta, che ha anche un hashtag, Go USA Go, di Francesco Geremicca, che sta facendo questo giro negli Stati Uniti, proprio una specie di coast to coast, per capire anche lì come cambia il lavoro, come cambia la società. E oggi è arrivato sulla West Coast e ci racconta come sia cambiato anche il mercato dei prestiti e dei mutui, che ora si possono ottenere anche online. E il titolo: così la finanza online assalta il fortino di Wall Street. Dalla West Coast parte la prima vera sfida al monopolio dei banchieri, e il pioniere, che si chiama Renaud Laplanche, 42 anni, cofondatore e amministratore del Lending Club, intervistato da Federico Geremicca, che dice: con noi clienti e investitori evitano la burocrazia. Dalle pagine interne del Fatto Quotidiano un'intervista a Giuliano Pisapia, attuale sindaco di Milano, ma tra 8 mesi qui a Milano voteremo. Pisapia ribadisce di non volersi ricandidare, e qui si toglie anche qualche sassolino, perché oltre al problema che hanno Milano, ma come tantissime altre città, di un taglio dei fondi, Pisapia si è sentito anche molte volte isolato dal suo stesso partito, dalla sua stessa coalizione. Cara Milano, ti lascio, ma il PD non cancelli sinistra, è società civile. Giuliano Pisapia, che era, è un, di professione fa l'avvocato, forse tornerà a fare l'avvocato tra 8 mesi, non era il candidato ufficiale del PD, ha guidato però una giunta di centrosinistra, era ufficialmente il candidato di SEL, quindi forse anche per questo appunto ha questo, nelle molte risposte dice che il PD si sta un po' spostando troppo al centro e invece non deve dimenticare appunto quello che lui chiama la sinistra, la società civile. Dall'Avvenire, tornando sui temi economici, dalle pagine interne, un approfondimento sulle conseguenze che la crisi potrebbe avere sull'Australia. L'Australia è un paese apparentemente florido, tra l'altro da pochi giorni Melbourne è stata per il 5º anno consecutivo eletta la città più vivibile al mondo, c'è però un rischio contagio anche per l'Australia e qui ce lo racconta Stefano Vecchia dell'Avvenire. Dalla disoccupazione all'edilizia, Canberra, la capitale dell'Australia, paga la frenata del dragone, cioè ci sono delle conseguenze appunto anche in Australia. Dalle pagine dell'Unità vi segnalo un'intervista al presidente della Comunione Liberazione, Bernard Scholz, che dice il governo sta facendo della Compagnia delle Opere, scusatemi, il governo sta facendo finalmente le riforme che nessuno ha fatto prima. Quindi un segnale di approvazione all'operato del governo, legato forse anche appunto a questo favorevole dialogo che Renzi ha avviato con il mondo, con una parte del mondo cattolico, con CL e anche con la Compagnia delle Opere, intervenendo al meeting di Rimini. Come le è sembrato, chiede Maria Zegarelli a Schulz, l'esordio di Matteo Renzi a Rimini? La risposta: ho avuto un'impressione positiva, mi ha convinto soprattutto la sua determinazione nel voler portare avanti le riforme e sulla necessità di una collaborazione a livello europeo. Scusate, Scholz, non Schulz. Dalle ultime segnalazioni che riesco a farvi, sempre dalle pagine interne dei giornali, questo articolo è richiamato in prima pagina sulla Repubblica, un articolo di Guia Soncini che prende spunto da un altro video postato ieri su internet. Ormai stiamo veramente, a volte i giornali rincorrono quello che succede il giorno precedente sui social network o su internet. Ieri una modella svedese, si chiama Agnes, ha postato un video in cui denuncia il fatto che, pur essendo magrissima, perché è una taglia 38, viene definita da alcune agenzie troppo grassa per le passerelle. Ci sono le sue foto, in effetti è magrissima. Guia Soncini poi cerca di senza neanche troppa ironia, ma cerca proprio di, da una parte, riconoscere il fatto che a volte le ragazze possono essere influenzate da questi modelli di magrezza estrema, e magari anche questo può essere un fattore scatenante o che contribuisce all'ossessione per il peso e in ultima analisi anche all'insorgere di disturbi alimentari gravissimi come l'anoressia, e però allo stesso tempo dice: intanto questa modella così è diventata personaggio almeno per un giorno. Un'ultimissima segnalazione che anche qui ha a che fare con la salute, dall'Avvenire, che torna sul caso dei farmaci. Ce ne siamo occupati anche noi, anche Irene a volte, soprattutto i farmaci che costano tantissimo, che sono molto costosi da sviluppare ma poi anche da comprare. E allora l'approfondimento di Vittorio Sironi a pagina 3 dell'Avvenire: se il prezzo dei farmaci sacrifica i malati al profitto, il caso in particolare dell'epatite C, l'impossibilità di curare tutti con il costo di un ciclo che va dai $900 in Egitto agli 84.000 negli Stati Uniti. $84.000, sì. Dollari per un ciclo per un farmaco salvavita. Sì, ne abbiamo parlato infatti, e c'è veramente una situazione di discriminazione ancora più odiosa in questo caso. Giulia Crivelli, grazie per questa rassegna stampa. Tu ritorni a questi microfoni per la rassegna stampa venerdì? Domani, sì, e poi ancora nel weekend, e poi lunedì torna a Milan, lo dico anche a tutti gli ascoltatori che ne invocano il ritorno. Alessandro ritorna lunedì mattina e noi invece ci occuperemo nel corso di Spunti di Vista di caporalato. Non si vince con una nuova legge, ma applicando controlli e sanzioni. Questo è il dibattito sul quale ci spenderemo oggi. Sembra che sia morto un altro bracciante, non se ne trova il corpo. Sarebbe morto nelle campagne di Rignano Garganico, in provincia di Foggia, crollando all'interno di uno dei 57 cassoni di pomodori che aveva raccolto. Questa è una denuncia che è arrivata all'ANSA dal coordinatore del Dipartimento Immigrazione della CGIL Puglia, Ivan Sagnier. e potrebbe in questo caso il corpo essere stato occultato dai caporali. Servono verifiche, ma una denuncia agghiacciante su una situazione che comunque nasconde condizioni di lavoro terribili. La vittima in questo caso sarebbe originaria del Mali. Parleremo anche con l'avvocato del marito della signora Paola Clemente del perché si continua, nonostante le morti, nonostante tante volte sembra si apra questo vaso di Pandora, a lavorare in queste condizioni. Cosa serve per mettere fine a questa piaga? E c'erano anche proposte interessanti ai nostri ascoltatori. Il tutto alle 8:30. Voi potete partecipare al 349-238-6666. Parleremo poi di genitorialità, di affido e di adozioni dalle 9, prendendo in esame anche una nuova proposta di legge che mette al centro il diritto dei bambini, il diritto dei minori ad avere una continuità affettiva. Ora ci fermiamo, diamo la linea al notiziario e ritorniamo tra pochissimo con Spunti di Vista, il GR.